L'altro ieri il medico mi ha detto che un motivo non c'è. Prendi queste pillole e magari poi ritorna da me. Gli ho spiegato bene questa situazione strana com'è. E da un po' di tempo io sto male 4 giorni su 3. Forse fumo troppo con gli amici senza accorgermene. Forse studio troppo, troppo poco, ma la voglia non c'è. Poi d'un tratto suona il campanello, e adesso chi è? Apro la finestra e tu mi chiedi, tua sorella dov'è? Io rispondo, un attimo soltanto, che guardo se c'è. Poi mi viene voglia di guardarti mentre tu guardi me. La chitarra senza accordo, tempo di cambiarle non c'è. Ma mi viene fuori una canzone che parla di te. Credevo che fosse pazzia, soltanto una mia malattia. Ma più passa il tempo, più tu ti fai unica. E guarda che ti tengo d'occhio da un po'. Guarda che ti tengo d'occhio, però preferisco stare male per te che restare a sbadigliare da me. E so che c'è un esame tra 3 giorni, mamma, dimmi perché. E se non trovo il modo di spiegare, male viene da sé. Ma ho capito, forse sei la pillola, la cura per me. E anche se le controindicazioni le decidi te, e vorrei fermarmi per parlarti, per bere un caffè, e chiederti se il tipo che sei adesso è meglio di me. Prendo la chitarra e tutto il resto dopo viene da sé.